stiamo parlando di zebra, mi ha perforato, ma come? Però se è venuta domenica la torre, guarda, no, mi ha perforato per zebra, non mi ha perforato per lui, guarda, come va che andava la torre, cioè, dai, cosa cazzo vuoi tu? Io ho emergenza radio, capito? Posso stare dove cacchio mi pare, capito? Eh? Poi se vuoi vedere i miei documenti, basta che tu ti presenti con la tua carta e te la faccio vedere, capito? Servizio emergenza radio, capito? Come a Sassari non ce n'è emergenza radio, c'è solamente un po' d'autobus. E io come Liliai non ne ho, perciò non credo di disturbare a nessuno, capito? Che c'hai Liliai, se può andare pure in un altro canale. Io lineare non ne ho, perciò è difficile disturbare. Poi io non è che stiamo facendo niente di eccezionale, stiamo parlando del più del meno e basta. Venerdì, mio, o bellezza. Cosa credi che me la sono dimenticato quello che ha fatto tuo fratello ieri notte? Assieme a quell'altro guasto di Alessio? Eh? Io quando tu stavi parlando con Saverio sono venuto a romperti le scatole, no? Ti ho lasciato parlare con quel Froscio. O con quel Finocchio, come... Eh? Capito? Io ti ho chiesto un favore di andare da Gian Michele a dire cosa. Non l'ho visto qua, là. Oh, però beh. Almeno dimmi che non ne vuoi fare cose, non le fai. È un canale di... E a te adesso state a fare una casa tua, capito? Brutto froscio. Anche a te Paolo, lo sai benissimo. Quando non ti hanno dato la concessione, sono chiara, c'è scritto abbastanza chiaro, che se no non si può modulare, perché bisogna lasciarlo lì per qualsiasi tipo di emergenza. Quindi Paolo, se non ti dispiace, cambi 40, il 39 canali a disposizione, capito? Comincia a lasciarlo tu libero, hai capito? Tu assieme a quella bagazza di Anna, hai capito? Coglione. Ascolta, io un giorno all'altro a te, e non sto scherzando, ti registro la, come si chiama, diciamo la modulazione del file e te la vanno ad avere alle scoposte. Prima di tutto ti devo dire una cosa, non ti permetterei più di nominare la gente quando non è in frequenza, uno. Poi c'è anche un'altra cosa, e questa qua è stata toccata, che non ti sento più modulare sul 9, perché se io ti sento di nuovo modulare sul 9, io faccio una bella lettera alle scoposte con il nome e cognome tuo, e non sto scherzando, e che sia finita anche di questo vizio che ti stai mettendo di nominare la gente che non ti cerca, chiaro? Guarda, vabbè, tu puoi dare il nome e cognome mio, mi metti i tre palmi e faccio in culo, capito coglione, che domani vado io dall'Esco Radio. E ti faccio fine a te e a Danilo Sanna, in brutte mani. Hai capito? Vabbè, se mi avete rotto i coglioni. Quando io sto su 40, mi rompi i coglioni. Vuoi che chiama adesso la questura? Vuoi che chiama adesso il 113? Le faccio sentire le tue porcherie quando parlavi con Anna? Brutto coglione. Tanto io non ci parlo poco e niente in frequenza, capito? Mi dici poco e niente in frequenza, uno. Porcheria non è dico, perché io quando parlo abbastanza pulito, uno. E te lo sto dicendo per l'ultima volta, a parte il fatto che io Danilo, quello che dici tu, neanche lo conosco, non so neanche chi sia, non so neanche che tipo di chi come si chiama. E te lo sto dicendo, non ti permettere più, Paoletti, non so cosa, di nominare la gente che non ti cerca, perché adesso mi ha già rotto le scatole, perché ogni volta che senti la mia voce, a parte il fatto che adesso sono entrato, non perché c'eri tu, perché stavi parlando sul 9, e sul 9 non si può parlare. Perché tu sulla concessione ci hai scritto abbastanza chiaramente che il 9 è un canale di emergenza e non lo puoi parlare. Comunque un'altra cosa, voglio dire, non ti permettere più di nominare la gente che non ti cerca quando entro io in presenza, perché mi stai già andando a far fissa, chiaro? Guarda, però beh, tu da ieri stai entrando in frequenza e non dire bugie per tuo porco, capito? Credi assieme ad Alessio Pomponio, Cosa credi che io me ne dimentico le cose? Ale! Molto buffo, e poi c'è anche Anna, Falco, mica quello ti vuol far vedere i peli, ma cosa cavolo vuoi tu, vabbè, vuoi che ti faccio chiamare dalla questura o dai carabinieri, anche che non so il nome né il cognome tuo, a me non me ne frega nulla, hai capito, tanto so il cognome di Alessio, faccio passare i casini a te e ad Alessio, hai capito, stronzo? Non mi interessa, io ti conosco, ma io neanche ti conosco, non so neanche che ti consegni, non mi interessa conoscere, io così entro qualche volta in frequenza e basta, forse è la prima volta che io ho battibiti in frequenza, hai capito? Non ti offendere, Paoletto, fatti chiari amici dell'uomo, più quando uno dice certe cose, lei dice scherzando, mi può anche andare bene, ma tu quando parli anche con cattiveria, e questo non va di cosa. Un attimo, tu pure. Che io ho l'ordine, che ho Radio Emergenza Radio, hai capito? C'ho la tessera, hai capito? Vabbè. Beh, c'è voi tessera, non ne avete, capito? Comunque a me non me ne frega niente, capito? Perché io non ci sono mai pensato se no, hai capito? Perché come credi, io so che vai in giro con Alessio, con Anna e con tutta la genga, hai capito? Io conosco, non lo sono, va bene? E non ti voglio conoscere, perché a me non mi piace conoscere nessuno, hai capito? Adesso sai perché sto qua su 9 io? Così se entri qua c'è la polizia e così se... Perché non hai dici qua le porcherie, eh? Che c'è la polizia così ti faccio arrestare subito, vabbè, eh? Ti faccio molto lì con la bocca, eh? Capito che a me non mi fai un piccolo, vabbè. Né tu e né nessuno, capito? Io ho tante di concessione e ho anche servizio emergenza radio, hai capito, stronzo? Io non sono come te che vado a mettere portanti, non sono come Luca che vado a mettere portanti a dire facco, ciucu ciucu, 100.000 voglio. Hai capito che non sono come gli altri io, eh? O come Savidio. Adesso cambio canale, però cambia canale anche tu, no? Che non ci scherziamo sopra, il canale 9 lasciamolo libero, perché bisogna lasciarlo libero, punto e basta. Se non vuole fare l'ascolto, fare l'ascolto e basta. Questa mi sembra qualche cosa che non va, siamo qua un'emergenza sul 9, chi deve rispondere risponde, però bisogna lasciarlo libero. Io adesso chiudo che mi giro e giro sugli altri canali. Amico, perché tanto non è tutti i giorni che io sto qua su 9, capito? Io sto rispondendo a questo qua in DM, capito? Perché questo qua fa il porco anche negli altri canali quando è con Anna Bambolina, come cavolo si chiama, capito? Allora tu caro Torre, se sei una persona seria, perché ti porti Anna? Perché ti porti gente in macchina? Cosa credi che la gente sia stronza? Comunque, io adesso ti ho dato l'ultima possibilità. Un'altra volta che venite su 40, fammi casino a dire faccone. Io adesso ti ho venuto da qua. Adesso sono affari tuoi, capito? Vabbè. Perché io un'altra volta che mi fate casino, che non mi fate parlare, io piglio 3313, poi saranno a capo di vostri. Va bene così. Tu dici che io non c'ho servizio emergenza radio, perché a te ti devo far vedere la testa. Tu che cavolo sei per farti vedere a te la testa? Avanti. Eh? Che ti porti anche Anna in macchina. Cosa credi che la gente sia stronza? Cercate di liberare il canale 9 subito, se no iniziamo a chiamare veramente 113. Falco, questo vale per te, perché sei tu che rompi il comune a tutti quanti. Andiamo, telefoniamo, diciamo 113, rivolgo 626, 1826, che vuole stare a te con la bagassa grande di mamma tua. Adesso libera il canale 9, se no mi tocca mettermi le scarpe e venire pure a casa tua, più alti tutto a calci in culo, perché il paraculo non sei altro. Allora tu cerca di sgridare l'amico tu, io capito quello che capita in via Rockefeller, capito, brutto stronzo anche tu, perché tu sei froscio peggio di lui e peggio di Marcolino Condor, detto pistilla, va bene adesso? Che io non ho paura né di te né di nessuno, capito, brutto froscio, eh? Già lo sai che io ti ho visto da Mario Notari, no? Eh? O vuoi che... Beh, non è che io voglio rovinare nessuno, capito? Vabbè. Capito? Tu fatti i cavoli tuoi, tu sei abusivo, capito? Se tu c'hai la concessione, fatti i cavolacci tuoi, capito? Che campi 100 anni se ti fai i cavolacci tuoi, capito? Perché a me da ieri che mi stanno rompendo i coglioni, vabbè. Cos'è la concessione mia a nome di mio fratello? Ma non vuoi vedere che te la sbatti in faccia la concessione? Eh? A vedere di chi è il nome? Ho brutto coglione. o devo fare 29 7 70, non ti ricorda nulla, 29 7 70, è il numero dell'amico Duio. Ascolta, per quanto mi riguarda puoi fare quello che ti piace, puoi anche prendere il bastone, la scoperta del culo di tuo padre con la barista vecchia, a me non me ne frega niente. Tu bisogna andarti a un altro canale, perché se no telefono al 113 e ti faccio arrestare a te con la barista di mamma tua. Cos'è che non rovini nessuno? Perché tanto lo sanno tutti al baracchino, che è ladro, che è ragazzino, perché vuoi toccargli le gambe, che sia un paraculo come tutti quanti gli altri. Aiuto, spegni, vattene via, vattene a dormire, non ti voglio neanche sentire, che mi hai già fatto abbastanza schifo. Ascolta, intanto Paoletta ti devo dire una cosa, se tu sei iscritto veramente al CERT, come dici, io domani non riesco a tabella, perché io sono iscritto al CERT, e questo te lo posso garantire. Ma io ho fatto spegni, ma perché non posso fare lo schifo? CERT di Alchero, perché se ma non pensi che abbiano, ci sarebbe veramente da vergognarsi se il CERT, i servizi emergenza radio avrebbero fatto scrivere una persona come te, perché allora forse davvero ci sarebbe, uno si sarebbe caduto veramente in basso, perché tu non sei niente, capito? Sei proprio rappato al vero, tu c'hai la, come se tutti ti fanno il, come si chiama, l'encefalogramma, rimane piatto, perché sei deficiente e basta. Vabbè, tu se ti provi dovrai, tanto quello che hai fatto stamattina, cioè tu quello che ho preso, così, no? Perché non vai a telefonare agli amici tuoi così, vabbè? Parla qua che c'è il 113 in ascolto, dai! Eh? Perché non fai lo stronzo come ho fatto ieri avanti ieri? Eh? Io sto qua su 9 in modo che sentano le tue cazzate, le tue boiate. Mi scuso con gli altri che sono in ascolto su 9, capito? Eh? Capito, vabbè, che a me non mi mette nessuna paura, né tu né nessuno, capito? Oh, bellezza, non ti ricordi che l'altra notte sei venuta insieme ad Anna sotto casa mia a luna di notte? Eh? Oh, coglione! Tu che non hai il cervello, ma gli altri già ce l'hanno il cervello, capito, brutto stronzo? O vuoi che chiamaresti il 113 e faccio sentire tutte le tue boiate quando parlavi con Bambolina, eh? Così mi faccio ritirare il baracchino subito, eh? Penso anche in questura che io l'ho denunciato lì il baracchino. Vai a dire il numero di mio, della mia concessione a vedere se te lo danno, brutto stronzo. Però so chi è questo qua che ha parlato, è Super Pippo e Giuseppe. Non dico il cognome perché lo rispetto, capito? Perché mi piace rispettare la gente, capito? Però, capito, troppo bello sarebbe rompere le palle alla gente che ne capisce, capito? Tu dici che